Beh, direi che avete capito che noi potremmo andare avanti per altre 3 ore, 4 ore, 5 ore e portarvi all'esaurimento assoluto. In realtà tutte le cose che stiamo raccontando ci sono all'interno del libro di Pietro Neno. Io lascerei a voi se ci sono delle domande da fare, se ne avete, se avete voglia di dire qualcosa, e se no poi ci salutiamo velocemente. Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Perché le mani erano occupate. Bussavamo con i piedi perché quando il contadino andava a chiedere una di quelle cose al padrone, si poteva lavorare piuttosto che tutta una serie di situazioni, avendo le mani impegnate, perché le mani devono tenere almeno 2 paia di capponi, doveva bussare con i piedi. Vi dico un'altra cosa a questo proposito, che nei mesi di 31 giorni, siccome le pecore facevano una forma di formaggio al giorno, 16 andavano al padrone e 15 al contadino. Se non ci sono altre domande, grazie a Pietro Neno Capitani per il suo libro, grazie a Giancarlo Collina per essere venuto qui, grazie soprattutto a voi perché siete stati a sentire questa storia che per me è bellissima, affascinante, va oltre, infatti è buffo perché anche quando ci siamo incontrati io e Pietro per parlarne, lui ne parla in chiave marchigiana. Ecco, questa secondo me è una bella pagina di identità, in questo senso. Lui ne parla da un punto di vista identitario. Io sono terrorizzato solo dalla parola, cioè per me l'identità è quella cosa che sicuramente è fondamentale, ma nell'essere fondamentale porta anche al dissolvimento della Jugoslavia e alle guerre tra etnie, no? Quindi è una di quelle parole difficili. Ecco, questo è un bellissimo esempio. No, posso dirti un'ultima? Sì. Perché mi hai fatto... Allora, l'integrazione degli ascolani sia in Romagna che in Toscana, e qui facciamo... No, possiamo portare quel periodo verso oggi, è avvenuta in alto. Cioè, chi ha ricevuto e chi è arrivato non ha preso il peggio l'uno dell'altro, ha preso il meglio. Quindi la diversità è un valore, non deve portare la Jugoslavia. E infatti, e tu comunque hai fatto un libro di ricerca sull'identità, ma dentro tu mi raccontavi l'ascolano. A me dell'ascolano mi interessava, con tutto rispetto, nulla. Cioè io ero affascinato da questa storia, perché questa è una storia universale. Quindi grazie a tutti per essere stati qui, fra 5-10 minuti siamo di nuovo qui, se avete voglia io e il collega Stefano Rossini vi racconteremo un viaggio che abbiamo fatto lungo il Po, intanto grazie.